2 ottobre 1940. Stasera finalmente ci siamo sbottonati con i nostri commensali quasi senza riserve. Erano molti giorni che ci eravamo capiti, ma andavamo cauti, attentoni, saggiandoci reciprocamente, ma manifestandoci sempre più viva la nostra simpatia. Il signore Sarto, con quei suoi occhi azzurri, intelligenti e profondi e quei denti bianchissimi scintillanti, si tratteneva a lungo presso la tavola dopo finito il pranzo e dopo che la sua signora si era ritirata in camera. E si intratteneva a chiacchierare con noi di cose varie, libri, giornalismo, arte, escursioni, e mi offriva le sigarette. Io fumo volentieri quando sento affiorare il noto argomento. Devo far svaporare in qualche modo la mia eccitazione. E poco alla volta il discorso si accostava sempre più al punto delicato, e i nostri occhi si capivano sempre meglio, mentre le nostre labbra sorridevano di sottintesi. Ma stasera abbiamo parlato apertamente, o quasi. Ci siamo raccontati una quantità di barzellette graziosissime, ma con una tale voluttà le abbiamo assaporate, come si fuma una camele oppiata di quel profumo dolciastro inebriante. E ho scoperto infatti stasera che le barzellette sono per il popolo italiano proprio come l'oppio, che assecondando il desiderio stimola il piacere e lo placa nello stesso tempo. Ma poi con Ginnico ci siamo rifugiati in camera e abbiamo preso nota delle barzellette. Abbiamo deciso di farne una raccolta perché non vadano sperse. Le butto giù in fretta senza curarne la forma per integrare con esse il mio libretto. Poi, quando avrò tempo, le sistemerò e darò loro forma letteraria, come le favolette di Fedro. Anche queste non devono andare disperse. Sono l'espressione più schietta dell'umorismo italiano contemporaneo. Vivace, piccante, acuto, penetrante, libero ed effervescente ancora. Che Dio lo benedica!